24 mattino. Buongiorno, bentornati in onda, 8:18, 50 secondi, è giunto il momento dei cani e dei gatti, è giunto il momento di evocare il grande Oscar Giannino. Oscar, non ti vedo, non c'è l'immagine. Ma le vere presenze che contano la storia sono quelle che meno fanno avvertire la loro immagine. Oh, bene. Allora, oggi tante cose, ma volevo discutere con te questa vicenda incredibile dello scontrinometro che non è partito. Lo hai gufato tu, secondo me. Ma no, ma figurati, è una classica dimostrazione dello Stato che annuncia non è in grado di tenere fede ai suoi annunci. Era la stessa società informatica dello spesometro. E questo sarebbe il la grande frontiera avanzata della tecnologia pubblica, che è quella che deve dare lezioni a privati, perché loro sì che non sanno tutelare la riservatezza dei dati in rete, non sanno dare servizi avanzati. Che vuoi fare? Uno sorride, perché poi col petti nei nodi arrivano sempre nel ma pubblico. Questa cosa della lotteria come la vedevi? Che uno pagava, strisciava lo scontrino e poteva vincere la crociera a Palermo. Figurati. Non ti eccitava? Ma no, ma mi eccitava. Infatti rido sul loro fallimento, ma rido amaramente, perché io non mi compiaccio del fallimento pubblico. Il problema è che è eterna l'immagine degli annunci non seguiti dai fatti, che è un classico su questo argomento. Il fisco amico, poi uno lo vede e dice: ma sei brutto come una bestia che mi picchia, dove sei amico tu? Poi il fisco efficiente lo vede e infatti ecco, siamo alla quinta proroga dello spesometro, ma noi vi premieremo con la lotteria, e la lotteria crolla, eccolo qua, li metti in fila. Come la vedi questa contesa onomastica delle dipendenti della Camera, che nel processo di declinazione al femminile, essendo segretari d'aula al maschile, sono diventate segretarie e sono arrabbiate con la Boldrini? È una nemesi, È una nemesi, ma è anche... Ti rendi conto quanto tempo noi abbiamo dedicato negli ultimi anni a questa questione? Adesso, io naturalmente io rispetto le intenzioni della Boldrini, però se uno pesa sulla bilancia tutte queste energie, tempi, procedure, riunioni del comitato a tre dell'autodichia, che adesso deve valutare l'ennesimo impugnativa appello, vogliamo dire che questa è la questione fondamentale della Camera e del Senato in Italia? No, infatti. Quindi tu dici sindaco o sindachessa? No, io dico sindaco. Poi ho, come giornalista devo ricordarmi da anni che ci sono esponenti elette che hanno una particolare cura nel voler essere chiamata sindaca, allora ti devi ricordare che devi chiamare sindaca, perché sono le manche di rispetto. Ecco, questa dovrebbe essere la regola generale. Ho tenuto per te un pezzo sublime sul Sole di oggi, Imprese e Territori, che parla della ricetta svedese no cash, può far emergere 160 miliardi, ma non è tanto questo, perché so già che non ti piace, ma la cosa divertente è questa, che non sapevo che ci sono centinaia di migliaia di cittadini in Svezia che si sono fatti impiantare nella chip per pagare il biglietto del treno e le altre spese. No, ma è incredibile. Il microchip viene da un po' di tempo usato in rete. Ma io non me lo farei impiantare mai, ma manco morto. Lo viene utilizzato come argomento di polemica e di ironia anti 5 Stelle, perché sai che alcuni 5 Stelle complottisti dicevano: i chip sotto pelle. Allora dici: no, come? Eccoli qua, qua ci sono i volontari del chip sotto pelle. Che cosa vuoi fare? Ci sono paesi in cui la trasparenza assoluta arriva a dichiararsi disponibili a quello. Io non lo farò mai. Senti, Carlo ci dice che rimbombi oggi. Secondo me quando sei carico di carisma vibra tutto qua. Senti, la struttura. Io ti devo invitare. Roma e Milano. Quando parli di web tax, non dire come hai fatto alle 7:43 e due secondi. Leggete la cosa sul Corriere di cui parla e hai posto la questione. Ma far pagare alle grandi multinazionali americane come Amazon, eccetera, l'8% di quel che guadagnano è giusto. Di quel che meno... fatturano. Ecco, tu hai detto guadagnano, il nostro ascoltatore pensa: beh, l'8% magari pagassi io l'8% di quel guadagno, e avrebbe ragione. Qui il problema è di quel che fatturano. Ecco, quel che fatturano... Ma tutti gli imprenditori italiani pagano molto più dell'8% di quello che fatturano, è solo equità. Non posso dirti? Non è vero, no, posso dirti che non è. Ecco, vedi, stai attento prima di dirle no, queste cose. L'8% di quello che fatturano gli imprenditori italiani lo pagano. Ti posso garantire che ci sono grandi gruppi, grandi banche che pagano. Ah, vabbè, ora metti le banche, no, andiamo su banche. L'economia banche reale. Assassine. No, l'economia reale, capisci? L'aliquota reale. Allora ti posso dire, paga. Io, libero adesso imprenditore, non mi vuoi far spiegare e tu, perché. Vabbè. No, e tu paghiamo sicuramente molto più, paghiamo ma quasi il 55% di quello. Sicuro, perché noi non abbiamo la possibilità degli ultimi giorni prima di tirare la riga sul bilancio di fare arbitraggio sul valore di libero di nostri asset, perché non abbiamo società di perimetro esteso eccetera eccetera, ma grandi gruppi pagano aliquote reali che sono inferiori anche al 20% del loro reddito, quindi figurati l'8% del fatturato. Ecco, poi ci siamo quelli come me, come te, che hanno microerrime società che paghiamo una sberla assoluta, ma perché non abbiamo la possibilità di fare arbitraggio da credito non fiscale. Siamo funziona scariconi così. E arbitrati. Allora c'è polemica fra alcuni nostri ascoltatori perché leggendo delle invettive di Sallusti e Veneziani contro Che Guevara ho ricordato che Che Guevara è paragonabile a tanti personaggi, metti Garibaldi che hanno sparato nelle guerre civili. Allora qualcuno dice no, 68ino. Beh, intanto Che Guevara dovete sapere che è stato portato in Italia il primo poster, lo ha fatto l'estrema destra, ma non è questo il punto. Anche Garibaldi ha sparato sugli italiani, c'è un film famosissimo di Florestano Mancini, Bronte. L'hai visto? Lo sapevi? Sì, beh, non è detto Garibaldi. Bronte, come sai, era uno degli ufficiali di prima fila. Bixio, Bixio. Un braccio destro. Su Garibaldi più che altro hanno sparato gli italiani, gli hanno sparato una gamba. Ecco, però detto tutto questo, io ti faccio notare. Sì, l'ho ascoltata, ero molto colpito da questa tua difesa, perché hai detto, come ve la prendete con Guevara? Allora ve la prendereste con tutti i politici che si battono per l'autonomia e l'indipendenza. E come sei per Che Guevara, sei contro i catalani e stai con Rajoy unitario poi, ma vedi quante contraddizioni che c'è, fantastico. Andato lì a cercare per voi. Allora, altri ascoltatori mi hanno mandato un video dicendo che venivano tutti da Madrid, quelli il milione, cioè quindi quei catalani sono tutti veri e gli unionisti vengono da Madrid. E un altro mi ha mandato in diretta, ma pensa come sono opinioni i nostri ascoltatori, in cui ci sono alcuni di questi manifestanti e fanno il saluto romano, quindi sono franchisti, tutti franchisti. Ma ci saranno stati anche i franchisti, ci saranno stati anche, forse anche tanti, cioè, quelli che venivano dalla Spagna, ma c'erano, come ci saranno stati anche quelli catalani non secessionisti, perché poi diciamoci la verità, in questi ultimi giorni la riflessione su un aspetto su cui nessuno aveva sottolineato degli indipendentisti catalani, cioè il fatto che con la secessione, se proclamata, si esce automaticamente dall'Unione Europea e dall'euroarea, quindi le imprese se ne vanno subito, senza stare a riflettere se è stata proclamata o meno, ma se ne vanno. Beh, questo un po' ha fatto ragionare la gente. È una delle tante follie del braccio di ferro a cui si è arrivati senza trattare, certo, e dialogare. Ma se ci sono i franchisti fra gli unionisti, ci sono i ceghevaristi fra i catalani, questo è poco ma è sicuro. Allora, da Parigi, Marta Fana, pane per i tuoi denti, la grande nemica del ministro del welfare italiano, iperinvitata nelle mie trasmissioni sabato, come sa anche lei. Davvero? E vedi, tu ragioni sempre con l'ideologia. No, e sto poi, scherzando. Tac. No, ma ci rubi gli ospiti. Allora, non è lavoro e sfruttamento nella collana Tempi Nuovi di La Terza, pure un bel libro con la carta ancora quella che sembra velina, odoroso. Buongiorno Marta Fana, un'invettiva contro il lavoro precario. Buongiorno a voi. Allora, che cos'è questo libro? È un pamphlet, un saggio? Cos'è esattamente? Qual è il cuore? Ma diciamo che è una combinazione lineare tra un pamphlet e un saggio, ovvero una via di mezzo. C'è un po' di analisi, c'è un po' di inchiesta fatta sul terreno e luoghi di lavoro e cercando di ascoltare quanti più lavoratori possibili nell'ultimo anno, in cui si cerca di rimettere un po' insieme quelle che sono, come le definisco io, le avanguardie e lo sfruttamento, ovvero quei settori dove la barbarie e l'autorità imprenditoriale sta arrivando fino a livelli quasi inenarrabili, anzi da questo punto di vista al contrario, no? Di cui non si parla mai, non si ascolta mai davvero quali sono le reali condizioni del mondo del lavoro, e quindi allo stesso tempo cercare un po' di ribaltare quella narrazione per cui gli operai non esistono più, la classe lavoratrice è morta, quando invece più ci addentriamo nel mondo del lavoro, più anche, come dicono i dati, la classe operaia non soltanto è viva, ma in termini quantitativi aumenta, perché appunto, come cerco di spiegare, una commessa, seppur sorridente, vestita bene, poi oggi è spesso un'operaia del commercio, così come... Lei racconta questo aneddoto, Marta, di una commessa a cui era impedito di sedersi e di bere addirittura, prima della pausa pranzo di poter andare... In alcuni posti ci sono davvero condizioni così dure per i precari? In molti posti, questa è una delle cose che ho trovato, ne racconto una, ma davvero l'ho trovata spessissimo nei centri commerciali, alle casse, le cassiere non hanno diritto a sedersi e neanche a bere, quindi ogni tanto si nascondono. Non in tutti per fortuna, ci sono posti civili in questo paese. No, fortunatamente non ho girato tutti i centri commerciali d'Italia, neanche i supermercati, però devo dire che sia tra il nord e il sud, ecco, una pratica abbastanza comune, tant'è che poi in quell'intervista questa ragazza che voleva assolutamente parlare della sua condizione, poi fortunatamente dopo 2 anni di lavoro a chiamata, superando tutti i limiti, non essendo mai stati corrisposti gli straordinari, neanche la messa a disposizione che in realtà è prevista dal contratto, una collega, proprio perché non potevano andare in bagno, no? Quando chiamavano la pausa, il cambio arrivava da circa mezz'ora, 40 minuti, ebbe anche un'infezione urinaria, però non poteva mettersi in malattia, altrimenti avrebbe perso il lavoro. Oscar, ma perché secondo te c'è questo divieto ai sedersi? Questo non si capisce in alcuni posti, possono stare tranquillamente sedute o no, non è che producono meno. No, ma figurati, il problema però è che queste condizioni di violazione elementare dei diritti collegati al lavoro contrattualizzato, che a questo serve, avvengono in presenza di ricorsi molto molto sistematici a forme di precariato in cui in realtà il lavoratore, pur di lavorare, pur di accettare paghe bassissime, finisce per accettare queste violazioni. Questa è la mala realtà. Qui non sta l'ideologia. Uno può pensare più a favore della flessibilizzazione del lavoro o più a favore di rigorosi diritti tutelati che lo rendono anche più rigido e costoso. Ma il problema è vedere con gli occhi della realtà che in Italia queste cose sono ancora troppo, troppo, troppo scandalosamente diffuse. Allora ci fermiamo solo un attimo per la pubblicità e torniamo insieme a Marta Fana. Ma fammi ridere, caro ascoltatore, Simone, fammi ridere. State ascoltando un programma offerto da Fidelity International, soluzioni di investimento per costruire un futuro migliore. Mattino. Rieccoci, Cani e Gatti, Luca Teresi, Oscar Giannino, al telefono a Parigi, Marta Fana, il suo libro da cui leggo a pagina 26, La storia di Mario. Mario ha le bollette scadute, un affitto da pagare, è costretto ad abitare in città perché in periferia i mezzi pubblici interrompono il servizio alle 21 mentre lui lavora fino alle 2 di notte. Mario non può permettersi la macchina, non sa neppure quanto guadagnerà a fine mese, ogni maledetto giovedì aspetta la chiamata della pizzeria, gli diranno se e quale turno coprire e così ogni giorno fino a domenica. Mediamente a fine mese guadagna 500 euro, 240 gli danno in voucher, il resto è il nero. In quanti casi quanti sono i lavoratori che secondo lei, Marta, hanno questo tipo di vita? Ma sono tantissimi, se guardiamo soltanto i voucher, diciamo prima della trasformazione con la tracciabilità e poi con il nuovo contratto chiamato Presto, no? Fare presto, erano circa 1,5 milioni. Poi in realtà dobbiamo aggiungerci anche, come facevamo prima nel caso della commessa, i lavoratori a chiamata, perché sappiamo benissimo che voucher e lavoro a chiamata sono esattamente sostituibili, proprio appunto quel lavoro che viene chiamato, su cui i turni di lavoro vengono stabiliti all'ultimo momento, quindi c'è una piena e totale incertezza rispetto alla propria organizzazione del lavoro, i turni, ma anche appunto al reddito a fine mese. C'è una differenza ovviamente, perché il contratto a chiamata rimane un contratto subordinato, mentre i voucher non sono neanche un contratto. Fatto sta però che appunto quando parlavamo 6 mesi fa di voucher, non abolitevi e non create quello che avete fatto adesso, perché del resto sono rimasti estesi a circa il 95% delle imprese italiane e gli abusi possono essere facilmente diciamo, creati, ma diciamo, io intendo sempre l'abuso già legge, no? Quando si parla di voucher, che sono pienamente incostituzionali sino alla versione originale del 2003 fino alla liberalizzazione del 2012, ma anche nel caso dei nuovi contratti presto. Allora, 800 24 0024 per chiamare al nostro numero verde. Oscar, posso fare una domanda? Sì. Sapendo come la pensa Marta, ma per dare l'idea di tutti dei temi, insomma, che sono toccati anche nel libro. Breve bilancio dei 10 miliardi di euro l'anno spesi per la decontribuzione del Jobs Act, perché su questo, anche su questo, chi la pensa come me, prima del Jobs Act diceva: l'articolo 18 è un feticcio, il vero problema sono le politiche attive del lavoro nel nostro paese, servono per rendere più funzionale un paese in cui nella crisi tanti hanno perso il lavoro, e il problema è spendere per questo, dove noi non spendiamo, invece che spendere una barca di soldi l'anno per tutti i contratti rinnovati, io li volevo spendere solo per quelli aggiuntivi. Il bilancio è che dopo il Jobs Act ci dà ragione, Renzi non ci sta, ci compra di insulti, ci dice che siamo i gufi, però Marta, dal tuo punto di vista, un bilancio di tutti questi soldi spesi, visto che il mix dell'offerta del lavoro tra tempo determinato e indeterminato resta quello che sappiamo e non quello che dicevano loro, che dici? Ma io dico che innanzitutto di miliardi ne abbiamo spesi quasi il doppio, perché dopo quelli del 2015 sono rimasti comunque gli incentivi per il sud e per i giovani, però sappiamo benissimo che in termini di nuova occupazione, finiti questi sgravi che poi sono diventati soltanto liquidità per le imprese, il lavoro a tempo indeterminato è ricrollato sotto i livelli del 2014. Questo significa che le imprese non hanno bisogno di lavoro a tempo indeterminato perché vivono alla giornata, cioè questa è la struttura economica verso cui siamo avviati, anzi forse in cui già ci stiamo dentro, non a caso il lavoro in somministrazione, no? Quindi il lavoratore in prestito è un'altra delle forme contrattuali, sempre, no, in larga misura a tempo determinato, che esplode. Quello che dico io però rispetto alle politiche attive, benissimo facciamole, ma non possiamo guardare sempre solo all'occupabilità dei lavoratori quando nessuno si chiede mai che tipo di lavoro domandano le imprese e quantomeno quale dovrebbe essere il lavoro e quindi la produzione che l'Italia deve svolgere da qui a un paio d'anni, perché non ci dobbiamo dimenticare, uno, che nessuno parla mai di imprese, di cosa producono, e due, che la domanda privata di lavoro è la più bassa d'Europa, cioè quella italiana. Quindi da questo punto di vista possiamo metterci tutti i soldi che vogliamo, e tra l'altro il bluff della nuova AMPA, del nuovo assegno di collocazione, è molto simile a quello della garanzia giovani, perché? Sono soldi, perché di fatto è un assegno che non va in tasca ai lavoratori, ma va in tasca alle agenzie di formazione, che appunto formano, tra cui per esempio anche delle piattaforme digitali di gig economy, che quindi formano per tipi di lavoretti che non hanno nessun connotato espansivo, nessuna produttività alta, nessun investimento. Comunque, al netto di questo, l'esperimento sta fallendo, Marta, come sai, perché la gente non lo accetta, ecco, preferisce non prenderlo. Ma ovviamente, perché la gente a quel punto prende un contratto in nero, un contratto metà e metà, cioè nel senso, parliamoci perché chiari, conviene prenderlo in nero o metà e metà, ma questa sì, forma orribile. Poi alla fine siamo una struttura produttiva che davvero, cioè, trova un tempo determinato qua, un po' di stagionalità di là, cioè si campa davvero in questo modo oggi nel sistema produttivo italiano. E allo stesso tempo la gente, se vede che ha 1,5 milioni di studenti obbligati a lavorare a gratis dalle imprese di qualsiasi tipo, alle pubbliche amministrazioni, alle cooperative, non trova neanche quel lavoro. Quindi la gente in qualche modo investe, spende dei soldi nel momento in cui pensa che ci sia una domanda di lavoro susseguente. Raffaella dalla Spezia, scusa Marta perché è molto in attesa. Pronto? Eccomi qua. Allora, mi chiamo Raffaella e lavoro in un call center. E anche nei call center dobbiamo dire che ci sono dei diritti che non esistono. Parlavate prima della pipì. Anche dove lavoro io non possiamo alzarci a fare la pipì. Ma anche vietato bere? Esatto, è ma perché? Per evitare di dover fare pipì? Perché non potete bere? Io lavoro in un call center in outsourcing, non possiamo più bere in postazione, premetto che lavorare al telefono vuol dire usare la voce, lo è sappiamo fondamentale bene. Per noi avere la voce che funziona e la gola umida. Non possiamo più bere in postazione perché altrimenti ci alziamo per andare a fare la pipì troppo spesso. Ma se vi vedono bere che succede? Chiudono un occhio oppure no? No, non possiamo proprio avere la bottiglia dell'acqua in postazione. Mamma mia, è una cosa raccapricciante, Oscar, incredibile. No, è raccapricciante, però qual è la questione? Adesso, senza scambiare i diritti con la bassa retribuzione, però bisogna saperlo leggere in maniera generale, cioè da una parte la, tra virgolette, fame di lavoro è molto elevata in un paese che ha basse tasse di partecipazione ufficiale, dall'altra le condizioni in cui a quel punto il lavoro viene organizzato e richiesto, proprio per questo, questo squilibrio, avvengono anche con la sospensione dei diritti, con retribuzioni bassissime. Questa è la tragedia vera dell'Italia. Certo, però qui siamo vicini veramente all'accanimento. Prima di tanti anni di polemiche, se posso dirlo, lo dico dal punto di vista riformista, flessibilista, vengono prima di tanti anni di polemiche, abbiamo riservato a questo cacchio di articolo 18, capisci, che è un feticcio dei decenni passati, dell'antagonismo, mentre queste cose qua sono la dinamica vera retributiva, la dinamica vera retributiva legale o meno, ci i diritti, una diversa cultura del lavoro. Se facciamo passi indietro sulla cultura del lavoro e ci mettiamo decine di miliardi di euro l'anno, però qui siamo oltre, Oscar, possiamo dirci tutto, ma qui siamo oltre la cultura del lavoro. Quando tu impedisci a uno che parla per lavoro di bere, tu sei un criminale. Ma ci mancherebbe. Corrado da Taranto. Buongiorno. Sì. Prego. Volevo dire che purtroppo anche nel lavoro ci abbiamo in Italia due velocità. L'ispettorato del lavoro che fanno pazzia nelle piccole attività, mentre queste grosse aziende non vengono per niente calcolate. Io stesso non si sente bene, c'è l'auricolare, lo tolga Corrado e sentiamo Francesco da Roma nel frattempo. Pronto, buongiorno. Sì. Senta, io volevo fare una riflessione e volevo farvi una domanda. Abbiamo assistito, diciamo, da vent'anni a questa parte ad un tracollo di uno dei due modelli economici che andavano per la maggiore, attraverso ovviamente... Quale? Un modello unico. Beh, ci stava il modello della economia pianificata e il modello dell'economia capitalistica. Certo. E quindi evidentemente, diciamo, la globalizzazione fatta senza regole, sfruttando sostanzialmente il modello dell'economia globalizzata, sfruttando anche la globalizzazione che c'è stata, evidentemente ha fatto sì che si sono venuti a verificare episodi di questo tipo, cioè globalizzare senza regolamentare in maniera indiscriminata a livello complessivo, quindi a livello dell'intero pianeta, ha portato a tutto ciò. E la domanda, tra l'altro, questo e la domanda? La domanda è questa, cioè non è che a questo punto è il modello economico che è completamente sbagliato e ce ne stiamo accorgendo dopo? Ma ora è colpa del capitalismo se uno non fa bere, cioè no, non è che sono non però... Non intendo questo, intendo dire che forse un'economia globalizzata, cioè una globalizzazione temperata... Vabbè, ma è colpa degli altri secondo lei, non è colpa nostra, perché chi ce l'ha con la globalizzazione dice chiudiamo tutto, se chiudiamo tutto, a parte che vendiamo meno, stiamo peggio, ma al di là di questo, secondo lei le rispettiamo meglio le regole? Non c'entra un beato piffero la globalizzazione. È un problema sa cosa vuol dire un beato piffero? Vi hanno schiaffato in testa questa roba, l'autarchia, la nazione, il sangue, la terra, fesseri, non c'entra niente con quello di cui stiamo parlando, poi lei lo può credere peraltro, ma con quello di cui stiamo parlando non c'entra. Non è che noi abbiamo adottato, prima eravamo il lavoro scandinavo e poi siamo diventati il lavoro cinese. Il problema è che c'è un continuum italiano in cui dice l'imprenditore piccolo, dice io devo pagare troppe tasse, troppe cose di regolamentazione eccetera eccetera eccetera, quindi con cosa mi rifaccio? Con i diritti, con le basse retribuzioni, magari con livelli di arbitraggio per cui vado a non pagare le tasse, e con mancato rispetto dei diritti. Questo è il modello italiano ed è purtroppo una linea di continuità dagli anni 50-60. Lo volete capire che non c'entra niente la globalizzazione? E su questo secondo me riformisti, liberali come me, gente che invece continua ad avere categorie, ma li rispetto, che c'entra? Diverse come Marta Fana, che usa categorie di analisi strutturale degli interessi contrapposti nel mercato del lavoro, di origine marxista e così via. Noi su questo, se vogliamo cambiare l'Italia, dobbiamo dirci che purtroppo sono dannati difetti permanenti. Luca, tu non la pensi così? Assolutamente, volevo sentire Marta Fana sull'articolo 18. Ma io credo che l'articolo 18 non sia un fatto. Perché lei polemizza, scusa, 18... lo ricordo nel libro che abbiamo letto, polemizza persino con Bersani che dice torniamo al 17,5 per dire che quel 18 proprio no, non ci si può tornare. Certo, cioè l'articolo 18 è una tutela reale, il diritto del lavoratore a non essere licenziato e mantenere pieni diritti e il posto di lavoro nel momento in cui appunto ci sia un licenziamento, no, per giusta causa, illegittima, eccetera. Cioè il lavoratore non può essere in qualche modo oggetto dell'arbitrio, dell'autorità, del ricatto di qualsiasi tipo morale, psicologico, economico da parte dell'impresa. E questo è quello che vediamo, che poi è la deriva di cui abbiamo parlato poc'anzi, cioè il fatto di denigrare, insultare il lavoratore, cioè vedere fin dove si può spremere anche psicologicamente, anche legato alla dignità umana. Questo è perché il lavoratore non può minimamente alzare la testa, altrimenti viene licenziato, mobbing, eccetera. Quindi secondo me l'articolo 18 va esteso a tutti i tipi di imprese, ovunque, perché sta davvero nella, cioè crea quella tutela reale, soggettiva e oggettiva al contempo, di rispetto del lavoro, delle tutele, appunto in un rapporto di forza che è necessariamente sbilanciato. Però volevo rispondere un attimo a Oscar Giannino, perché ok, la globalizzazione forse possiamo non usarla come metro, sicuramente il sistema capitalistico crea questi scompensi, crea questo grande disequilibrio nei rapporti di forza. Dall'altro lato però, quando io parlo di Amazon e parlo di quello che succede nella logistica, non è che questi tipi, queste forme di sfruttamento e barbarie esistono soltanto nel lab di Piacenza, e lo vedremo prestissimo in quello appena aperto a Viterbo, esistono ovunque, negli Stati Uniti, in Germania, eccetera. È il modello Amazon, è il modello Moro dei Fuggi, dove quello che conta è soltanto appunto il click, l'acquisto, è infatti l'autonomia del consumatore, il cliente, rispetto a quella del lavoratore. È lo stesso caso di Ryanair, tutti ci preoccupiamo dei clienti lasciati a terra e nessuno si, e quindi il disagio. Marta, ma tu lo sai che quando dici queste cose alcuni a casa capiscono che stai difendendo all'Italia, che invece non è capace di stare in piedi. Io difendo semplicemente il fatto, no aspetta, ma lo dico senza polemica, perché so che lei non lo sta difendendo. Dico solo che nella semplificazione dei ruoli il problema è, io ti capisco, cioè hai un criterio storico diverso dal mio di interpretazione della storia economica, così, lo capisco. Però attenzione, perché a casa molti dicono ecco garanzie, più retribuzioni. Poi alla fine bisogna farle stare in piedi le imprese, perché molti Se le imprese, scusa Gian, però se le imprese non riescono a stare in piedi pagando i propri lavoratori, significa che non hanno nessuno dei criteri di economicità. No, non quindi, è detto, significa sì, semplicemente, cioè, che magari ci sono paesi che hanno ordinamenti che fanno pagare troppo il costo del lavoro rispetto a quello che in cambio danno. In Francia e in Germania è più alto di quello dell'Italia, sì, il costo del lavoro, la produttività sì, è molto più alta, le ore di lavoro, il tempo lavorato è minore, eppure la produttività è più alta, cioè noi ci Ma sono il primo a dire che la produttività non è solo bellissimo, il lavoro umano, ma dobbiamo produrre anche noi. Solo una pausa per la pubblicità, certamente, e torniamo a sentirvi. Mattino. Rieccoci, cani e gatti, Luca Terese, Oscar Giannino. Si è scatenato l'inferno, tanti messaggi. Ho assunto per non tenere a partita IVA una ragazza, spesi migliaia di euro per burocrazia, busta paga, ora è incinta e spendo comunque un sacco di soldi. Partita IVA tutta la vita. Ma sentiamo ancora il vivo della vostra voce da Roma. Chi c'è? Angelo? Buongiorno. Guardi, io stavo facendo una considerazione, cioè che il motivo per il quale spesso e volentieri, essendo quella del lavoro, specialmente nel campo dei servizi, una catena, il motivo per il quale l'ultimo anello, quello più debole, cioè il lavoratore, viene tenuto in condizioni, come abbiamo sentito per il call center, che insomma, mi sembra come minimo una barbarie, è perché a monte le aziende che comprano questi servizi tendono sempre ad abbassare di più il costo, andare all'estero, incominciare a chiedere prezzi più bassi. E quindi ma che dovrebbero fare, secondo me? Che le aziende devono chiedere prezzi più alti per fare meno margine? No, bisognerebbe. No, però è chiaro che non c'è concorrenza, cioè il discorso è chiuso qui, cioè nel senso che in Italia non siamo in grado di dare determinati tipi di servizi, perché non c'è redditività e quindi di conseguenza o lasciamo stare, decidiamo che queste, ma no, queste cose il problema non è non c'è redditività. Oppure, di fronte a costi amministrativi. Troviamo... Oppure? Prego. Dica. Oppure? No, stavo dicendo, dico, oppure eventualmente bisogna creare una soglia e stabilire che c'è una soglia minima. Per esempio, secondo me, l'abbassamento del costo del lavoro è una cosa, cioè diamo più soldi nelle tasche di questa forbice, diamo più soldi al lavoratore e quindi chiaramente... Sono d'accordo, per esempio. Cioè, figurati, qua lo soglia. Diciamo tutti i giorni, sull'abbassamento non c'è ombra di dubbio. Maria da Bologna. Sì, buongiorno. Senta, io telefono per protestare perché oggi non si parla dello Ius Soli. Siccome ci state sfraculiando tutta l'anima da un anno a questa parte, per cui l'unico problema dell'Italia è lo Ius Soli, protesto perché oggi non si parla dello Ius Soli e si parla invece stranamente dei problemi degli italiani. Ma noi è una tutti cosa i giorni eccezionale e anche problemi. Vergognosa, direi. Tant'è vero che c'è un ministro della Repubblica, della nostra amatissima Repubblica, che sta facendo lo sciopero della fame per i diritti di queste persone, perché giustamente i voti che potrebbero prendere da queste persone sono molto, molto appetibili, e quelli che invece derivano da questi poveretti sono molto più insicuri da questa gente che lavora in questi termini. Ma vergogna, vergogna e vergogna per i ministri di questo governo. Grazie per l'ascolto, buongiorno. Bene, e l'arrabbiatura... Chissà che fine hanno fatti i Marò, cioè mi sembra un po' un intervento simile. Allora, Angela da Padova. Sì, ciao, buongiorno. Io sono una precaria, no, non sono più precaria, quest'anno sono entrata in ruolo, ma sono stata vede, una precaria storica. Vede la buona scuola di Renzi, direbbe... No, piano. Ma non io, buona... però sto ironizzando, vedo. No, ma e purtroppo devo ammettere che è stata la buona scuola, perché ammettiamo. Ho fatto il concorso e l'ho vinto, però insomma non zero plauso, nel senso era un'anomalia alla quale qualche Giusto. Governo prima o poi avrebbe dovuto rispondere. Giusto. Comunque volevo porre l'accento appunto sul precariato della scuola, perché è veramente una grande anomalia, perché stiamo parlando di impiego pubblico, stiamo parlando di assenza di concorsi e stiamo parlando di lavoratori che vengono trattati esattamente, se non peggio, di quelli di cui stavate parlando. Io sentivo prima della commessa del centro commerciale che non può né sedersi né andare a fare bere. Né andare a fare la pipì. Io vi garantisco che ho passato anni in cui mi svegliavo la mattina a 7:40 pronta come una soldatina lì davanti alla porta di casa ad aspettare la telefonata, senza sapere che materia, quante ore, quanto tempo, quali classi, se c'era bisogno. Benissimo, Angela. Allora vede abbiamo cosa vuol due dire? Minuti. L'oscenità della scuola è che come datore pubblico, il pubblico per milioni di italiani è stato peggio del peggiore dei privati. Questo è fantastico. Allora, farei così, perché i minuti corrono. Marta Fana su come dovrebbe essere regolamentato il lavoro a chiamata e Oscar per le conclusioni. Il compagno Giannino conclude. Marta. Sicuramente il lavoro a chiamata va abolito, cioè nel senso non possiamo vivere del con dei tutto. Contratti talmente precari, nel senso è inutile che chiediamo l'articolo 18 se poi si può ricorrere voucher al lavoro a chiamata o al lavoro in somministrazione di mezza giornata, cioè nel senso non riusciremo mai a risollevarci a questa situazione. Poi tra l'altro possiamo dire che di lavoro subordinato il contratto a termine può essere stipulato anche per mezza giornata, quindi quello è esattamente un lavoro a chiamata, no? Perché può durare tot. Poi mi dispiace l'intervento di prima, sì, una ragazza è incinta, cioè davvero dobbiamo negarci tutti i diritti di riproduzione sociale soltanto perché ci devono essere i profitti, perché poi di questo si parla. Bene, però sentiamo un imprenditore a Napoli e poi Oscar. Francesco, prego. Ciao, buongiorno. Vada. Volevo intervenire sull'articolo 18. Io sono un imprenditore che assume, di recente ho assunto almeno 7 persone. Bravo. Premio Oscar, non Giannino, Oscar proprio. Ma se c'è il lavoro e se c'è l'azienda che va bene, ma perché non dovrei assumere? Bene. E tra le altre cose, ma se non c'è il lavoro, ma comunque devo far sopravvivere l'azienda, l'ultima delle mie chance è quella di licenziare i lavoratori. Che, sono che cosa persone... fa questa azienda? E lavora nel comparto agroalimentare. Bene, speriamo che deflagrino i consumi. Oscar. Mi limito a dire che secondo me invece l'abolizione chiesta per referendum alla CGIL, e di fronte al quale poi ha capitolato il nuovo governo perché non aveva nessuna intenzione di difendere le cose che aveva contribuito invece, no, il governo Renzi a tenere in piedi sui voucher, ha prodotto per generale consenso di tutti coloro che lo applicavano nei settori tipo turismo e ristorazione adesso più nero di prima, e questa secondo me è una scusa. Marta, lo so che non siamo d'accordo su questo. Ne discutiamo un'altra volta. Più nero di prima. E ricordate il libro di Marta Fana per chi comunque è interessato, Non è lavoro e sfruttamento. La battuta cult di oggi è di Sarri. Alla fine di una lunga intervista sulla Gazzetta gli chiedono: rinuncerebbe a fumare per lo scudetto? Lui dice: no, vorrei vincere lo scudetto fumando. Cult. Ciao! Ciao, caro. Fidelity International, soluzioni di investimento per costruire un futuro migliore. Vi ha presentato 24 mattino.